24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Medinapoli, Medinapoli. Musica guaglione. Abbiamo detto tutto su Napoli e l'amore. Ci vuole una canzone ancora più fuori dal normale. Piena frate ma carica bomba per Napoli. One more sound lo sud che diamo. E non solo cacoccia, la coppa stiviana, chitarra, mandola, violino, campana. Non ho mai pensato che Napoli anche nel momento più difficile potesse essere tra le ultime. Non penso che oggi possa essere tra le prime. Penso sicuramente che è una città viva, una città che sta cambiando profondamente, è una città che è invasa di turisti come non si è mai visto nella nostra città. Ieri non si poteva camminare a piedi. Dimmi che cosa c'è da dire, ma dimmi che cosa c'è da scrivere. Poi che significa? Siamo primi, siamo decimi, siamo centesimi? Non lo so, perché se guardiamo alle emozioni che è da Napoli, io non mi sento secondo a nessuno. Ai servizi sicuramente non siamo tra i primi, alla creatività, alla passione, all'umanità siamo sicuramente tra i primi. Quindi sono sempre statistiche un po' da prendere con interesse, ma senza insomma appassionarsi troppo. Vai Gigino, resisti anche contro le classifiche del Sole 24 Ore che mettono Napoli come qualità della vita in fondo. L'orgoglio di Napoli, le emozioni che dà Napoli. Siamo primi, che vuol dire ste classifiche? Primi, ultimi, in mezzo, decimi, quinti, quarti, ottavi. Dico ciao, basta che farima te con me in tre. Due, sento, sento, guaglio, tutto mondo ce va, perché siamo tutti medi Napoli. Siamo tutti made in Napoli. Io l'ho detto, sapete che qui da questi microfoni dicevamo Gigino resisti già quando c'era la vicenda del sindaco, infatti ha resistito ed è lì, grande Gigino. Che cosa c'è da scrivere? Sì, l'amore fra l'amore. E vabbè, adesso contesta le classifiche sulla qualità della vita del Sole 24 Ore che mette Napoli tra gli ultimi, tra, adesso non so quant'è, centesimo, ma adesso non ce l'ho presente. Comunque in fondo Gigino, l'orgoglio di Napoli, resiste, va bene. Voglio salutare Lorenzo Nespoli in redazione, oggi c'è Paolo Corleoni in regia. Ma che avete fatto all'Alpino? L'avete messo in un trituratore? Che è umido, buono per i campi ormai? Dove sei? Peter Bescapè, t'hanno rottamato, t'hanno rottamato. Vorrei salutare subito Vincino e capire la sua Palermo nella classifica del Sole 24 Ore, dove è stata piazzata. Dove? Non lo so, dove sta? Ma come? Molto sopra praticamente. Sopra che? Al terzo posto, al quarto. Sì, sì, ti piacerebbe. No, non lo so, adesso non ce l'ho. Sopra Napoli sicuro, eh. E perché? Poi sopra Agrigento è l'ultima. Agrigento è ultima, sì, sì, sì. Mi dispiace per là perché, insomma, Agrigento c'ha una bella storia, ecco. Ho capito, c'è una bella storia, evidentemente non la sanno rivalutare molto bene. Vabbè, comunque siamo con Vincino, c'è anche il nostro Alessandro Giglioli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Piovono rane. Piovono rane, il suo blog rane. Seguitissimo, più seguito questo ormai di quello di Casaleggio e Grillo. Piovono rane. Vabbè, ma ci vuole poco di questi tempi. No, dai, io adesso. Siamo subito così. fai subito lo spaccone, non esagerare. Carino, dai, non esagerare. Dai, dobbiamo aprire il Parlamento qui, che ci sono tante cose da dire. Apriamo il Parlamento, dai, che è l'83esima settimana decisiva. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Decisiva di che? Della riforma elettorale. Renzi vuole accelerare, Berlusconi vuole frenare, spunta già il lodo Calderoli per slittare tutto al 2015, ma Giglioli, che passione seguire queste cose, che dici? Passione nel senso proprio spassionata sul Golgota. Sì, il Golgota, esatto. Non lo so, io ogni tanto ne parlo anche sul mio blog e sono sempre sì. I post con meno commenti, chissà perché, perché la gente non è appassionata. Io ci provo come missione civile, no? Perché dico, è giusto che la gente sappia in qualche modo, che sappia quello che fanno dentro il palazzo, anche se non gliene frega niente. Allora cerco anche l'ultimo che ho fatto, un tentativo di spiegazione e di divulgazione, poi sì, successivo, sì. Ovviamente. No, la gente non ti segue, la gente dopo due righe niente. Sulla legge elettorale cambia pagina, guarda, niente. Lo faccio anch'io, lo leggo così sfuggito. Comunque anche sta roba delle città, dai, posso dire una roba sulle città? Dai, dilla. No, lo so che voi lo dovete fare del sole, questa roba. Quello dovete fare, stai attento adesso come parli. Stai attenta come parli, L'avete come missione, no? Sì. Però è una puttanata. Ma dai, smettila! Non si può Ma fare. Smettila! Perché le variabili della qualità della vita di una città non è come il PIL. Sono quelle robe superate dai tempi. Smettila subito, Vincino. Vincino, di subito qualcosa contro Carlo De Benedetti ed Espresso. Buono, dai, su. Parlavo di altro. No, è un vecchio deficiente. No, ma cosa dici, Vincino? No, scherzavo, fermati anche tu. È trascesa in un attimo. No, Vincino è così. Io. Editare un bel giornale di satira. No, colpa mia, Giglioli. Colpa mia, è così. Però l'hai fatto un po' trascendere tu. Anch'io ci ho messo del mio. No, ma io volevo solo dire che le variabili di qualità della vita sono talmente complesse, sempre di più. Sì. A seguito della complicazione che è difficile valutare. Che è molto, io per esempio andavo sul personale, sono un milanese che si è trasferito in una città sicuramente più degradata come sì. Roma, eppure vivo molto meglio a seguito di variabili difficilmente inseribili in classifica che stanno tra la bellezza dei monumenti, il meteo, sì, io sono sì. Un meteoropatico, quindi soffrivo, eccetera, eccetera. Volevo arrivare qui. Vabbè, io invece voglio andare a Marx, voglio andare alla modernità. Vincino, hai sentito? Come? Che c'è? Vuoi un giudizio su Marx? No. Vabbè, dammi un giudizio su Marx, dai. Era un po' sopravvalutato, diciamo. Un po' sopravvalutato, va bene. Come dire, noi leggendo i suoi articoli nella Gazzetta Renana, no, di cui, come dire, l'abbiamo letto quasi... Di cui tu facevi le vignette, ovviamente, No, no, ma poi Grundris là, che tu quei volumoni là, insomma, vabbè, insomma, alla fine poi c'è stato quello che gli ha fatto quelle due paginette del manifesto e via. Si è salvato con quello, Marx. Ma di politica ne capiva proprio niente. Ne capiva poco. Eppure Renzi cita Marx ieri alla direzione del PD, sentite Renzi, Partendo da una lettura marxiana, se non marxista, mi pare che sulle tesi su Feuerbach Marx dicesse: i filosofi hanno solo interpretato il mondo, peraltro in modi diversi. Si tratta adesso di cambiarlo. Ecco, mi trovo in una situazione abbastanza simile. Ho fatto una riflessione su Marx. Devo dire che alle 6:39 minuti tra Marx, Feuerbach e il cambiare il mondo, Giglioli, tu ci hai capito qualcosa? Renzi su questo è un po' un orecchiante, con tutto il rispetto. La parte in cui Marx ha deciso di attenzione, ma tu hai scritto il libro La Cavalcata, ma cosa fai adesso? Lo critichi? Stai guadagnando soldi su Renzi. Sì, ma è un orecchiante su tutto, poi sta tutto il tempo a telefono ogni giorno a 7 5 Stelle, telefona a Fitta Verdini, a Civati, a 4 giornalisti quotidiani, 7 di Web e TV, a telefono a Signorina, a Tony Blair, un segretario della Merkel, SMS con Marchionne, un messaggio tutti con l'Antichi, vabbè. Una chiacchiera con Glio, un altro a te non ti chiama, non ti chiama, t'ha mai chiamato? Non ti ha mai chiamato dopo il libro? No, noi ci parliamo direttamente, noi ci siamo incontrati alla cosa, alla Piralda, là, come si chiama? Alla Leopolda. Alla Leopolda. Com'è che l'hai chiamata? La Piralda. La Piralda, la... Ma no, Giglioli, fai qualcosa tu, fermalo. Quest'uomo la mattina è carichissimo. Io stavo concludendo un ragionamento su Marx. No, vabbè, ma hai capito, cioè lui vuole cambiare il mondo come Marx e Feuerbach. No, io stavo dicendo che il Marx che interpretava il mondo, al contrario di quello che dice Vicino, che come tanti bravi filosofi, era interessantissimo. E quando ha fatto proprio lo step di tentare di cambiarlo, cioè di usare la sua filosofia come attivismo politico, che secondo me ha fatto lo step sbagliato. È lì. Non credo che a questo sono sempre le 6:41, ricordiamolo, effettivamente. 6:41. A proposito, insomma, come ha detto Vincino, Renzi telefona. Allora, ieri a Piazza Pulita c'era questo onorevole Massimo Artini, che peraltro avevamo anche noi ieri mattina ai microfoni. Si è presentato in TV, è stato espulso, no? E allora che succede? Succede che Piazza Pulita l'ha seguito nei giorni precedenti e mentre era microfonato nel fare un servizio, succede che lo chiama Renzi. Ma anche perché, attenzione, bisogna dire una cosa: Renzi e Artini erano compagni di scuola, non so se all'elementare o alle medie. Che c'è, Vincino? Una scusa c'è per tutti. Una scusa, ti ricordi la maestra quella? Esatto, no. Avranno esordito così. Vabbè, comunque succede che le telecamere di Piazza Pulita dunque beccano il momento in cui Renzi chiama Artini. C'è il Renzi, un attimino, risponda il Renzi. Ma te lo sei, Mario? No. Matteo, buongiorno. Un pochino, ma probabilmente hanno... Sì, ho visto, Aspetta, Matteo, e ti... sono microfonato, non vorrei che... Cioè, Artini a un certo punto dice, sono microfonato, Matteo, e mette giù. Però poi che succede? Che Artini, che era lì in diretta, si arrabbia tantissimo perché quelli di Piazza Pulita hanno mandato in onda questa cosa. Allora, in diretta reagisce così. Aspetta. Quella telefonata lì è stata fatta non appena microfonato. Ho ricevuto una telefonata in cui, nella parte in cui non si sentiva, ovviamente, mi veniva solamente detto, è una espulsione scandalosa. Cioè, lei ha parlato con Renzi. Sì, ma non c'è, guardi che non c'è niente di clamoroso. Non è che stiamo parlando così di un come pericolo. Ho parlato, cioè, lei non si deve scusare, non ha ammazzato nessuno. Non mi sto scusando. Stia tranquillo. Non mi sto scusando, ma questa cosa è indegna. Quale per cosa? Questa. Di allora, prendere scusate, una parte in cui voglio spiegare no, ai Formigli, voglio spiegare io. No, come adesso seguo io. E lì finisce, come finisce? Che prende e se ne va. Senti. Le do la parola. Europea Mogherini, lei ha chiamato il capo di Stato Maggiore della Difesa e altri sottosegretari per denunciare questa situazione scandalosa. Questo modo di fare informazione è scandaloso. Io la ringrazio e buonasera. Grazie. È Vincino, ma che è successo? Io non ho capito, ma lui ha parlato col capo di Stato Maggiore, con la Mogherini. Con la Mogherini, ma tutti a chiamare Artini. Un modo di fare informazione indignitosa. Indignitosa, sì, esatto. Ma infatti, cioè, lo scandalo è questo. Io non ho mai ricevuto una telefonata dal capo di Stato Maggiore di nessuno. Ma perché Artini, che è stato espulso, viene chiamato da... Io ogni tanto, no. Ci chiamiamo noi, io chiamo Giglioli. Ma tu ti ricordi Favia come fu fregato da Piazza Pulita? Sì, è vero. Guarda, è pazzesco, era come Portaiella a questi. No, Portaiella è che Favia è scomparso. Non fanno è il loro lavoro, mettono. Cioè, però anche questi quando ti microfonano, ma spegni sto benedetto cellulare! C'è di più, Giglioli. Complottone. No, che complottone, che questo ha fatto, come si dice a Milano, appunto, ha fatto il ganaffa, ha fatto il bullo, c'è Renzi, aspetta, c'è Renzi. Aspetta, cioè, ha voluto far vedere che lui era, che veniva cercato. E poi la Mogherini, e il capo, a te t'ha mai chiamato il capo di Stato Maggiore a me al massimo mi chiama l'asilo per dirmi di andare a prendere la bambina, questo è la telefonata più importante. Accidenti, però anche tu. Ricevo. Anche tu. E quindi di solito io non dico c'è il Renzi, cioè, se mi chiama il Renzi mi alzo e mi vado dall'altra parte. Dici, c'è l'asilo, dice c'è l'asilo, fermi tutti, c'è l'asilo. Perché effettivamente per me è una telefonata importante, ma è soggettiva l'importanza. Detto questo, se uno fa il bullo, dice c'è Renzi, è chiaro che poi insomma non si può aspettare che ci sia disinteresse nei confronti di tale chiamata. Effettivamente, effettivamente. Comunque, ma se... una frase che dice frustate nel culo. Sì, è vero, è vero. A un certo punto nella telefonata con Renzi dice, ma dice questa cosa, c'è una frusta nel culo. Ma sì, bastava che lui non dicesse c'è Renzi e nessuno si interessava alla chiamata. Esatto, anche perché parla di frusta nel culo con Renzi. Questo è il... che voleva dire Vincino, secondo te? Raccontano, magari là Renzi racconta lui le ministre, le cose che... No, no Vincino, fermati, fermati, fammi andare al traffico, che è meglio, ho capito. La frusta nel culo, ecco. 24 mattino. Milan, il pinguino vergognoso, è circondato di mezze figure per non farsi ombra. Mandate a casa questi incapaci, meglio tenerli a casa loro e pagarli anche. Facciamo sempre un affare, ci stanno affamando. Facciamo ritornare i D'Alema, le Rosi Bindi e perché no anche i Berlusconi. Forse Berlusconi non sa che la cataratta è gratuita, non dobbiamo aspettare lui che va al governo. E poi lui non sta, sta sotto sorveglianza, che non può parlare, scende in campo. Ma babà è quelli che le stanno vicino, ancora lo credono. Oddio, che delusione, che tristezza. Anni 60, momento di ripresa, si erano inventati l'ECA. Ora, dopo quasi altri 60 anni, siamo ritornati indietro peggio di prima. Non vogliamo mettervi da parte, almeno fate un altro ente dove nessuno vi guadagna, però qualcuno si mangia. Ciao Alino, comincia la settimana, sempre la solita solfa, sempre le solite supercazzole dei politici, però questa volta vorrei iniziare in un altro modo la settimana e dirti questo. Andrea! Pirlo 2-1. Mi raccomando, non rosicare troppo, Alino. Ma no, io mica tengo al Torino, che mi frega. Mi spiace per il mio amico Mario Giordano, che tra l'altro avevo ospite oggi alle 8.15. Ieri è stato anche messaggiato così da Mario Dinolfi in diretta. A proposito, Giglioli, sai che ha fatto Mario Dinolfi qui? Vincino già lo sa perché era ospite con no, noi. No, non commento Mario Dinolfi. In che senso? Ma lascia stare, niente, ma no, ma tu già vuoi sapere, voglio la mamma, ma che se ne frega di sta roba qua? No, ha fatto un esperimento sociale che vorrei facessi anche tu. Ha mandato qui ai nostri microfoni, ha dichiarato pubblicamente il suo cellulare, il suo numero di cellulare, così ha detto chiamatemi, ha detto che lo chiamano in genere, com'è che adesso ti facciamo sentire tra un attimo in genere la telefonata tipo che riceve Mario Dinolfi. Vuoi farlo anche tu, Giglioli, comunque dare il tuo cellulare? Vuoi che lo dia io, se guarda, sei emozionato, magari ti sbagli. Io non rispondo quasi mai al telefono. Allora, e allora possiamo darlo. L'asilo. E allora possiamo darlo se vuoi. Vabbè, insomma, Vincino, tu la settimana scorsa avevi promesso di farlo. L'ho dato la settimana. No, come l'hai dato? No, guarda no, che. La registrazione l'ho dato. Andiamo a sentire l'Ampex. Andiamo a sentire l'Ampex. Comunque, sentite la telefonata tipo che riceve Mario Dinolfi, Pronto? E Mario Dinolfi, sì. Hai vincione di merda! Ecco, questa è in genere Giglioli, la telefonata. Vabbè. Allora, io di Mario sono stato anche amico per un certo periodo. Vabbè, ma adesso non lo devi rinnegare, no, mamma no, mia. No, non rinnego affatto, credo che lui sia entrato in un loop di ricerca di visibilità che va oltre la sua... Vabbè, adesso sei... Mi dispiace molto. È diventato un po' come Giuliano Ferrara, adesso si offenderà tantissimo. No, è un altro film, sono delle quelle persone, ne ho conosciute tante, che a un certo punto per visibilità perdono il controllo di se stessi. Addirittura. Vabbè, questo glielo gireremo, però qua dobbiamo parlare di una cosa interessante. La disputa che c'è è molto interessante tra Vendola, Vincino, Vendola e il sottosegretario Cassano. Hai presente cosa è successo? Ho presente. Allora Cassano gli ha detto: tu non hai mai lavorato, ti fai la manicure. Al che Vendola è sobbalzato a dire: omofobo! Ma che vuol dire omofobo? Adesso perché è omosessuale ti fai la manicure? Cos'è omofobia questa? E voleva dire il sottosegretario Sì, ma nell'intenzione di questo, l'NCD sono tutti maniaci questi qua. Infatti Alfano, questo... Alfano, Cassano e cosa, uno peggio dell'altro. Ma che maniaci, infatti Cassano... Si vogliono riportare all'Italia dell'epoca di Scelba, di cosa. Comunque Cassano fa oggi due interviste a dire ma io ho amici gay, esco quotidianamente coi gay, anche in segreteria uno dei miei è gay. Aspetta un po', la dichiarazione omofoba non è quella, fai la manicura, la vera dichiarazione omofoba è quando uno dice ho amici gay. Ho amici gay, ma no, per quella, dire si deve quella, difendere, quella si deve difendere dall'accusa di omofobia e dice... Quindi lì si rovina con le sue mani, dai. Si rovina con le sue mani. Ho molti amici ebrei e antisemita, questo è vero. Vabbè, no, adesso, magari invece è vero. Scatta automatica. Poi destino alle unghie rotte, sporco, stato, ma perché? Ma dire? Perché è molto meglio la Moretti, dai, Lady Like, molto meglio. Vabbè, comunque Vendola è molto arrabbiato, sentite Vendola, Vendola. L'onorevole Cassano, di professione marito, che si permette di esprimere parole così offensive da omofobo bigotto quale egli finge di essere, beh, insomma, dovrebbe essere cacciato dal governo. Dovrebbe essere cacciato, Vincino, cacciato, perché ha detto le mie mani hanno i calli e le tue, Vendola, che non hai mai lavorato, sono mani da manicure. Ma il pensiero di Cassano era là, però, guarda, io non so, forse ho sbagliato io, perché l'ho disegnata questa cosa qua Cassano, perché poi Speranza ha fatto pure lui un tweet di solidarietà, allora mi ha convinto, insomma. T'ha convinto Speranza? Mi ha convinto Speranza, poi forse ogni tanto i disegni vanno più veloci della testa. Sì, perché ti sei fatto convincere da Speranza, effettivamente. Sì, devo dire, ho ritwittato, insomma, sì. Vabbè, è un omofobo secondo te Cassano? Tutto l'NCD è tutta l'NCD, tutta la storia, tutta l'NCD. Tutta. Fitto compreso. Fitto? No, Fitto è del... Fitto sarebbe ancora di Forza Italia, sarebbe ancora di Forza Italia. D'Alema è Forza Italia, è la parte peggiore quella là di quelli di Forza Italia d'Alemiano. Vabbè, ma chi è il peggiore politico, Vincino? Tanto tu giudichi, chi è il peggiore? Peggiore oltre Borghezio, aspetta, il peggiore oltre Fini, oltre, io ti posso dire, no, è complicato perché guarda, sono 93% peggio del peggio. Peggio del peggio, è una gara al peggio. Allora, facciamo il toto Quirinale, tanto qui ormai dove ci tocca io il toto. Ho la candidatura della Cardinale. Sì, perché infatti, Claudia Cardinale. La sua voce, Mario, con quella sua voce fa il messaggio natalizio, andate, capodannesco. Cardinale al Quirinale, non è male. No, ma ha una voce stupenda, non è che... Cardinale al Quirinale, oggi il Fatto Quotidiano, giuro, in prima pagina titola così, il figlio di Muti, di Riccardo Muti, dice la proposta è concreta, Renzi l'ha chiesto a mio papà. Questo se posso dire una roba, che non faccio totonomi, però questo è significativo perché mi pare che ci si stia orientando verso i nomi che sono venuti fuori, al di là di quelli fatti per essere bruciati tipo Amata, no? Quelli invece veri, che sono due, e cioè Muti e Cantone, sono due Cantone non c'ha neanche 50 anni. Cantone l'hai messo tu, però. L'hai messo tu, Cantone? No, non l'ho messo io. Leggete, Vincino, leggi. Vabbè, allora, che c'è? No, i due nomi che sono venuti fuori sono due nomi, Muti come possibile uomo diciamo che piace anche al centrodestra, e Cantone come possibile uomo che piace anche al Movimento 5 Stelle, cioè per le due alleanze, no? Sono due nomi entrambi di non diciamo così, non ingombranti, cioè Renzi sta cercando un signore o una signora che faccia il meno possibile politica. Perché Napolitano ne ha fatta tanta, no? Sta cercando una persona che super partes, che stia al Quirinale così. Tagli nastri, che torni chi, a tagliare chi c'è? Nastri. Gronchi. Tagli nastri, che non faccia, perché come si fa in questi anni Napolitano di politica ne ha fatta tanta, qualcuno dice anche troppo, qualcuno dice insomma, un nome così, ma io vi devo salutare, ringrazio Vincino, Alessandro Giglioli, dai, ci sentiamo alla prossima.

cosa c'è di male. Io mi immagino come si sentono stamattina tanti insegnanti che si sono preparati la loro lezione, Spinoza, Kant, l'analisi logica, le funzioni esponenziali, l'auristo, e poi arrivano e si sentono dire che la cosa più formativa della scuola è quando dormi nei sacchi a pelo per fare l'amore con una ragazza sul banco o dietro il banco o sotto il banco. È un messaggio profondamente sbagliato, non perché non sia bello fare l'amore con la ragazza nel sacco a pelo, io capisco benissimo e capisco anche molto bene la nostalgia del sottosegretario Faraone, oltre che il suo desiderio di tendere le mani ai ragazzi. Però così si dà un messaggio profondamente sbagliato sulla scuola e anche ai ragazzi. Direttore, io ho ricevuto ieri, quando ho citato questo articolo, un'appassionata mail di Niccolò Rescia. Niccolò Rescia è uno studente che è rappresentante al Bercè, uno dei licei di Milano più famosi, che dice: io durante l'autogestione insieme agli studenti abbiamo potuto ascoltare lezioni di Ferruccio De Bortoli, abbiamo invitato il sindaco Pisapia, è venuta la presidente della RAI Tarantola, abbiamo ascoltato la presidente di Emergency Cecilia Strada, abbiamo ascoltato Vittorio Agnoletto, insomma abbiamo ascoltato e ha potuto apprezzare anche qualcosa che la scuola magari non ti dà in maniera didattica. Così. Questo può essere un segnale che la scuola non funziona, deve essere più aperta alla realtà, e allora questo è un segnale che va raccolto. Io, avendo avuto già due figli che hanno finito il liceo scientifico, posso dire che l'autogestione, anche quelle istituzionalizzate di cui parla il sottosegretario Faraone, che per la realtà già esistono, si concludono più delle volte in lezioni scarsamente frequentate sul sesso dei pinguini macaroni o sulla filmologia di Hedwig Fenech, dall'Ubalda bella calda alla patata bollente, cioè sono per lo più cose buttate via. Che poi ci siano anche esperienze positive non metto in dubbio, ma resta il principio che, per come la vedo io, il sottosegretario all'istruzione, che rappresenta l'istituzione, non può delegittimare la scuola. Può dire: io voglio una scuola diversa, più aperta alla realtà, che vada più incontro alle esigenze. Però è un messaggio sbagliato. I professori non conta niente, vogliono mettersi da parte. Guarda, direttore, è una follia. Queste parole le ha ascoltate il sottosegretario, che saluto, Davide Faraone. Buongiorno, sottosegretario. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, che succede? Lei ha detto in questo articolo: non voglio incitare ad occupare nessuna scuola, però Mario Giordano dice: ma è un messaggio sbagliato che un sottosegretario lancia, cioè il meglio della scuola a volte a lei pare essere addirittura quelle ore di autogestione. Io conoscevo un Giordano un po' meno parruccone, un po' triste di come sto ascoltando oggi in trasmissione. Io ho fatto un ragionamento che è molto semplice. Ho raccontato una mia esperienza personale, che è stata l'occupazione che ho fatto da protagonista negli anni passati, che per me è stata un'esperienza altamente formativa, e ho detto che la scuola deve riuscire a garantire degli spazi di autogestione degli studenti. Infatti ho utilizzato il termine istituzionalizzerei pure, perché credo che sono assolutamente formativi, molto di più a volte di alcune lezioni fatte in classe con il professore in classe. Non sarebbe meglio sistemare la scuola così com'è, invece di dire... Infatti faccio un riferimento nell'articolo che ho scritto alla riforma sulla buona scuola, che garantirà agli studenti di poter mettere in campo azioni di questo genere. Il mio articolo era un ricordo personale positivo, e l'idea che con la scuola, con la buona scuola che abbiamo in mente come riforma del governo Renzi, sarà possibile, se gli studenti con l'autonomia e la valutazione mettere in campo iniziative di questo genere. Era proprio questo. Dopodiché ho anche detto che le occupazioni o le autogestioni, le assemblee che si stanno facendo sui temi che riguardano il governo e la riforma sulla scuola non ci vedono spaventati nel raccogliere questa, diciamo, ondata di protesta, ma anzi siamo disponibili a partecipare anche alle assemblee, anche a quelle, anche qualora a quelle. Una discussione sui temi per migliorare le riforme. Vabbè, c'è da dire che il vice rappresentante dei presidi, Mario Rusconi, oggi le risponde in qualche modo proprio sulla stampa, che ha pubblicato il suo articolo dicendo: ma insomma, occupare una scuola è un reato, non si può lanciare questo messaggio. Comunque, Giordano, sei un po' parruccone triste, questo è il... Io sarò parruccone, ma va benissimo essere parruccone. Io penso che la scuola debba innanzitutto insegnare. Oggi la scuola abbia un grandissimo problema di formare i ragazzi, di dare delle regole certe, della disciplina certa, che abbiamo dato sempre, sempre di meno. E guardate, dare questi messaggi, che i professori in fondo quello che fanno non conta niente, perché quello che conta è stare nel sacco a pelo con la ragazza, che per l'amor di Dio capisco la nostalgia, lo dico del sottolegato, è bellissimo, tutti noi abbiamo nostalgia, ma confondere la nostalgia con quello che deve essere a scuola non si fa solo male della scuola, come dicevo all'inizio, degli insegnanti, perché l'insegnante che adesso va in aula è delegittimato stamattina, perché ha il sottosegretario all'istruzione che gli ha detto che quello che lui fa è meno importante di qualsiasi lezione sui pinguini macaroni che hanno inventato gli studenti, ma fa male anche dei ragazzi, perché le occupazioni hanno un senso e le si cresce, si diventa grandi, siamo stati tutti ad occupare, non solo il sottosegretario Faraone, quando si infrangono delle regole, le istituzioni devono affermare delle regole, devono affermare, e poi situazioni le occupazioni di oggi ti sembrano un po' un rito stantio? Un rito stanco, su tutti gli anni, fra l'inizio della scuola e Natale, siccome il periodo è troppo lungo, si fa un periodo di vacanza aggiuntiva. Tra l'altro devo aggiungere che questo studente, Nicolò Rescia, che mi ha invitato all'autogestione dal 2 al 5 febbraio, io se lo riterranno utile verrò con tutta la mia passione a incontrare i ragazzi, mi fa sempre piacere. Però, sottosegretario Faraone, cioè come risponde anche alla critica di Rusconi, oltre a quella di Giordano, che dicono ma così si delegittimano gli insegnanti? Ma io sono allibito del fatto che si possa pensare che la mia idea fosse di rendere esclusivo questo tipo di attività della scuola. Io sto dicendo un'altra cosa: oggi è esclusivo in una scuola molto spesso il fatto che si faccia una lezione di stampo tradizionale, mentre credo che le scuole possano mettere in campo un variegato, una variegata azione di iniziative didattiche, assembleari, su temi che riguardano la società. Io conosco un sacco di ragazzi che hanno trovato la passione civica e la passione all'impegno politico, sociale o imprenditoriale perché hanno fatto di queste esperienze della scuola. Io per primo ho iniziato a fare politica dopo una occupazione. Se la ricorda, se la ricorda, dov'era questa? A Palermo, lei di Palermo? A Palermo, il mio istituto. E dopodiché credo che queste cose di qui servano alla scuola. Sì, però sottosegretario, accanto a questo è chiaro che ci vorranno anche iniziative che collegano l'alternanza scuola-lavoro, quindi con le aziende, ci vogliono le lezioni tradizionali, ci vogliono tutte queste cose qui, ma il problema è che manca questo tipo di iniziativa nelle però scuole. Sottosegretario, la critica che le viene fatta da me, anche da Giordano, da altri è questa: lei avrà ragione anche a dire che a volte la lezione canonica appare un po' stantia, ma si lavori per riqualificare gli insegnanti, un nuovo modo di vedere la scuola, cioè la soluzione non può essere l'autogestione. No, ma infatti se l'articolo era uno strumento di promozione della riforma. E siccome questa riforma che abbiamo messo in campo e che da gennaio porteremo gli atti in Parlamento, è una riforma che va in questa direzione, proprio di rendere la scuola più flessibile, istituti autonomi, i docenti da valutare anche su queste cose. Cioè i docenti si valuteranno anche per come riusciranno a creare sinergia fra i ragazzi e la società, non soltanto fra i ragazzi e la classe. Quindi tutto questo, il mio articolo è una promozione alla riforma. Le chiedo, naturalmente, da un punto di vista della sicurezza è scontato che tutto ciò che riguarda devastazione degli istituti, riguarda illegalità, è chiaro che è deprecabile e condannabile in maniera forte e dura, l'ho scritto anche nel pezzo. Chi dovrebbe pagarle però queste cose se poi succede? Magari un'autogestione sfugge di mano e qualcuno... Ricordo che i danni che facemmo in classe o alla scuola quando occupammo l'istituto li pagammo noi studenti, dividemmo la cifra diciamo rispetto a quello che era l'importo complessivo. Però credo che al di là dell'occupazione, che è uno strumento illegale perché comunque impedisce lo svolgimento dell'attività didattica, ci sono mille altre formule. Lo strumento dell'autogestione, delle assemblee autonome non organizzate, perché ogni volte anche il presidente Rusconi, che ieri ho avuto modo di ascoltare, si propongono sempre attività organizzate da lui, dai presidi. Io insomma, è questo, che è questo. Giordano, i ragazzi devono prendere un po' in mano l'iniziativa. Io dico, se c'è un'autogestione, il preside dice vabbè, fate un giorno di autogestione, io non lo trovo una cosa scandalosa, effettivamente, no? Giordano, no, cioè, no, non la trovo una cosa, come dire, vediamo, no, vediamo voi ragazzi cosa fareste, di cosa. Poi è chiaro che i ragazzi vanno sempre anche un po' orientati, un po' lasciati anche liberi, però è questo che contesta Faraone, dice. Se si punta sulla scuola, sugli insegnanti, sul presidi, mi sembra una strada praticabile per migliorare la scuola. Ripeto, non è stata percepita così ieri dai presidi, non è stata percepita così che dalla maggioranza degli insegnanti. Io trovo, devo dire, che sia piuttosto triste, questo sì, che il primo intervento del neo segretario all'istruzione non sia quello di dire mettiamoci al lavoro per migliorare, ma fare un intervento che non dice le cose che sta dicendo oggi con una bella retromarcia, ma dice i momenti più formativi della scuola, ci sta scritto nell'articolo di ieri, sono quelli delle occupazioni. Ecco, allora, visto che mi ha dato del parruccone, mi permetto una battuta anch'io. Se l'attività politica dell'onorevole Faraone, il sottosegretario Faraone, è iniziato durante un'occupazione, come racconta lui, beh, questo mi fa declinare, mi fa pensare ancora una volta, forse non tanto a favore delle occupazioni, forse non danno sempre risultati positivi. Vabbè, insomma, allora chiudiamo, però Faraone le vorrei chiedere, era una battuta ovviamente, adesso non entriamo, Faraone, devo chiudere, mi dica solo una cosa, ma secondo lei Renzi, così perfettino, così boy scout, ha mai occupato una scuola? Non lo so, ma glielo chieda, glielo chieda, ce lo faccia sapere. Non è tanto perfettino nemmeno lui. Vabbè, ho capito, però se non mi direi il tipo. Secondo te Giordano ha mai occupato una scuola, Renzi? Giordano, ha mai... piuttosto il capo del consiglio di Claudia, che rappresentante di questo istituto, secondo me l'ha fatto. Sì, rappresentante di classe che dice si fa così, fare presto, fate questo. Vabbè, dai, si scherza anche, ovviamente. Voglio salutare e ringraziare il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone e Mario Giordano, direttore del TG4. Abbiamo parlato e parliamo di occupazione delle scuole. C'è Domenico che ci ha chiamato. Domenico, buongiorno. Domenico da Roma, eh. Buongiorno, Domenico. Buongiorno. Che dice lei? Io sono sconvolto, ma poi non più di tanto. Da che? Abbiamo da questo fatto che un membro del governo ci dica che bisogna istituzionalizzare un reato, perché l'occupazione di una scuola è un reato, interruzione di servizio pubblico, ed è emblematico. Questo l'ha detto, però l'autogestione è un'altra cosa rispetto all'occupazione. Ma guardi, sono occasioni per i partiti di sinistra per fare proselitismo, basta. E quando i reati vengono compiuti da certe fazioni politiche, quelle di sinistra, sono accettabili. Però Domenico, mi scusi, cioè, lei crede che i ragazzi che fanno autogestione fanno occasione perché i partiti facciano? No, ma a volte sono i ragazzi. Assolutamente, ma ci sono stato, mi scusi. Ci sono stato anch'io al Castelnuovo a Roma, venivano i membri del partito, venivano spediti appena c'era una autogestione o un'occupazione, venivano spediti a fare proselitismo. Vabbè, magari sì, però magari l'intento dei ragazzi 15 anni, 16 anni è quello di anche provare un'esperienza nuova. Io posso capire, cioè dire che bello, vai a scuola e oggi parliamo di quello che vogliamo noi. Cioè, c'è un po' nella sfida, nel gusto dei ragazzi di andare un po' contro il sistema. Questo non è che tutto, poi magari qualcuno cercherà certamente di strumentalizzarla dal punto di vista politico. In ogni caso, facciamo così: se volete chiamare ancora su questo tema, 800 24 00 24, fino alle 9 siamo in diretta, c'è tempo sicuramente per qualcuno, qualche altro ascoltatore. Vi ricordo che invece dopo la pubblicità avremo anche ospite il procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia. Parliamo ovviamente degli sviluppi delle vicende dell'assassinio del piccolo Loris. 24 mattino. Siamo qui, allora, sono le 8:39 minuti. Allora, avete mai occupato una scuola, caro Roberto da Ancona? Hai occupato, di' la verità. Buongiorno Roberto, come sta? Buongiorno Maurizio, complimenti per la trasmissione e complimenti Alessandro, per l'impegno. Ma va bene. Per l'impegno che appunto che impieghi in questo tentativo di cercare di far capire questa Italia come funziona. Niente, la mia considerazione è questa, praticamente è un'autocertificazione quella di stamattina di come sta funzionando l'Italia e il perché l'Italia non sta funzionando, nel senso che abbiamo premiato fino ad oggi la mediocrità, quindi siamo in un regime di mediocrazia. dove abbiamo tante persone meritevoli che potrebbero rivestire delle posizioni appunto di governo, di comando, sì. Invece ecco, abbiamo questi esempi dove, esempi che in altri paesi normali, Francia, non voglio parlare d'Inghilterra, e magari non di Norvegia, non accadono, e se accadono chi rilascia questo tipo di dichiarazioni, quindi praticamente chi va contro le istituzioni che rappresenta, dopo un po' dice vabbè, ho capito, ho sbagliato, mi dimetto. Dovrebbe dimettersi Faraone, siamo a questo punto, il sottosegretario all'istruzione. Ecco, Maurizio. Sono Alessandro, comunque mi chiamo sempre Alessandro, però mi chiamo va bene, però va bene, chiamami Maurizio, a me sta bene comunque. È la prima volta, sono un po' emozionato, lo ammetto. Comunque ecco, il discorso è questo, che praticamente chi ha un ruolo, chi riveste una, appunto, chi rappresenta un'istituzione, deve prima di tutto pensare qual è il suo lavoro, e quindi quindi ha sbagliato Faraone. Grazie Roberto. Andrei da Mauro da Brescia. Buongiorno Mauro. Signor Milan, buongiorno. Eccoci. Premetto che per ognuno che si avvicina alla vita politica è sempre un vantaggio per la collettività, però con tutto rispetto non stiamo parlando di Giolitti, quindi se durante quell'occupazione il sottosegretario forse non avesse partecipato, vabbè, da adesso prima Giordano l'ha fatto come battuta a dire però la penso veramente. Vabbè, la pensa, mi ha preceduto, ha detto più o meno la stessa cosa, quindi questo è. E il discorso era diverso, il mio, volevo semplicemente dire che il tempo impegnato per le occupazioni, se sono occupazioni programmate, stantie, forse potrebbe essere utilizzato per organizzare in cooperazione con la scuola qualcosa di più interessante, perché sappiamo tutti chi c'è stato, chi l'ha fatto, che sono purtroppo perdite, spesso volentieri perdite di tempo. Vabbè, ragazzi, ma lei non è mai occupato, Mario? Mai occupato? No. Io sono Mario, va bene, allora la chiamerò Giovanni. Ma va benissimo. Sì, io ho detto Mauro. Certo, va bene, non è un problema di nomi stamattina. Ascolti, è fantastico. Ci chiamiamo ognuno come vuole. Mauro, dica. È un'autogestione. È un'autogestione. Io la ribattezzo allora, Raffaello. Dica Raffaello da Brescia. No, non ho mai avuto il brivido dell'occupazione. Purtroppo, scioperi sì, magari, ma sempre per poca marmellata nelle brioche. Occupazione. Che non era niente di serio. Va bene, dai, la ringrazio Mauro, oppure Giorgio, come dirsi voglia. Vorrei intanto salutare però, poi magari qualche ascoltatore ancora ce la facciamo, vorrei salutare il procuratore della Repubblica di Ragusa, Carmelo Petralia. Buongiorno procuratore. Buongiorno, la ringrazio, se qui ovviamente cambiamo decisamente registro perché parliamo di questa tragedia. E allora, come sa, voi indagate a 360 gradi per questa vicenda della uccisione del piccolo Loris, e tutta l'Italia si inquieta, ovviamente si fa delle domande. Oggi leggevo sui giornali che soprattutto Repubblica parlava di 48 ore di cerchio che si stringe, insomma, ci faccia capire, per quanto ci può dire, se davvero l'assassino alle ore contate oppure no. Allora, è chiaro che il tipo di informazione che si può dare in questo momento è alquanto limitato. In ogni caso è vero che l'indagine è partita e continua a 360 gradi, come si suol dire, vale a dire con un cerchio molto ampio. In questo cerchio ovviamente vi sono due piste privilegiate che vengono perseguite con una attenzione particolare. Una o due piste, mi perdoni procuratore, una o due piste corrisponde a uno o due persone? Due, corrisponde a uno o due persone entro certi limiti, diciamo a uno o due contesti nei quali il delitto può essere maturato. E poi c'è un cerchio più piccolo, che è quello ancora vuoto, dentro il quale speriamo di scrivere entro breve tempo il nome. Al momento non ci sono indagati comunque. Fino a questo preciso momento in cui le sto parlando non ci sono indagati. Tenga però conto che c'è un'attività di indagine veramente molto molto impegnativa, con un concorso di strumenti e investigativi di altissimo rilievo, che sono stati tra l'altro messi subito a disposizione dal capo della polizia, dal comando generale dell'arma dei carabinieri, e che sono proprio fisicamente operativi. Però mi scusi procuratore Petralia, vuol dire che questa potrebbe essere una giornata con qualche risvolto significativo? Guardi, tipicamente in questo genere di delitti si va dalle 72 alle 96 ore, dopodiché il tempo si dilata, insomma non dico in modo infinito, ma comunque in modo più consistente. Quindi se si arriva alla individuazione di un elemento indiziario sufficientemente grave in questo termine, che è appunto quello dei 3-4 giorni, c'è la possibilità di poter dire che il caso è risolto. Quindi calcoliamo che siamo ancora prima della 72esima ora, diamoci ancora quest'altro spazio. Le chiedo questo, procuratore: oggi i giornali parlano di questo quindicenne che frequentava il piccolo Loris, è una delle piste a cui si riferiva? Sono tutti dati che non si possono né dire. Dato né confermato. Mi racconti invece qualcosa della persona che ha trovato il corpo, che ancora ieri è stata chiamata in questura. Oggi fa un piccolo sfogo sul giornale dicendo: ovviamente tutti mi guardate con grande attenzione perché l'ho trovato io. La sua posizione al momento qual è? È una posizione che è stata valutata doverosamente. È stata valutata e studiata, ci sono vari profili così per i quali è stato necessario attenzionarlo, ma in ogni caso è la persona che di fatto ha avuto il primo contatto col corpo del povero bambino. Le chiedo questo infine, procuratore: ieri lei in un'intervista ha detto è una comunità piccola quella di Santa Croce Camerina, credo 8.000 abitanti. È possibile che non ci sia, come dire, che sia sfuggito anche, che non ci siano tante testimonianze? E le chiedo, a lei se ne aspettava di più, si aspettava più collaborazione oppure la cittadinanza sta collaborando? Guardi, su questo punto abbiamo lanciato più segnali alla popolazione, ma in vari contesti. Devo dire, ieri ho visto dei frammenti, non ho avuto il tempo di vederla per intero, anche di un'edizione speciale di Chi l'ha visto, in cui è stato giustamente e opportunamente inserito anche il numero della trasmissione. E devo dire, lo dico così, questo proprio a titolo assolutamente personale, con mio stupore non è arrivata nessuna segnalazione né a Chi l'ha visto né alle nostre forze dell'ordine. È un dato che, così, se vogliamo, da un punto di vista sociologico e culturale, mi permetto, o meglio, mi riprometto di studiare e di capire meglio. Dal nostro punto di vista rimaneva e rimane tuttora l'esigenza di avere qualche indicazione. Anche certo, perché è un delitto così odioso, poi giustamente la comunità si interroga, ci sono tanti bambini e nessuno... Mi permetta, la reazione della comunità dal punto di vista di manifestazioni di sensibilità nei confronti di un fatto di questo genere è stata altamente positiva. È tra l'altro una comunità molto variegata, con una percentuale molto, molto rilevante di cittadini extracomunitari regolarmente residenti e inseriti nel tessuto sociale di Santa Croce Camerina, e tutti, sia i siciliani sia gli extracomunitari, hanno reagito dal punto di vista così delle manifestazioni di solidarietà, di vicinanza nei confronti di chi è rimasto colpito in maniera sensibile. Però telefonate... c'è il dato che probabilmente è anche dovuto all'ora, era un'ora in cui un po' tutti erano affaccendati, andavano al lavoro, ecco, insomma non stiamo qui, non è neanche no, è chiaro, il dato è quello che ha indicato lei, che le ho confermato, che nessuno chiama. Io intanto la ringrazio, procuratore, è stato molto cortese, ovviamente buon lavoro, e grazie. Speriamo che il caso venga risolto. Ce lo auguriamo. Carmelo Petralia è procuratore della Repubblica di Ragusa, grazie per essere stato con noi. È il momento del traffico. Allora, sono le 8:51 minuti, vorrei sentire Daniela che ci chiama da Viareggio per il tema delle occupazioni. Daniela, buongiorno. Buongiorno, signor dottor Milan, piacere di fare la sua conoscenza, anche se la conosco da tanto. Senta, io vorrei fare due premesse. Una, io non sono di sinistra, assolutamente, sono di centro-destra. Sì. No, per rispondere al... Ah, chi dice l'occupazione di sinistra. All'occupazione. Poi, sono... drammatizzerei il discorso di Faraone, e per me dire che lui ha ha approvato reato, è una strumentalizzazione e nient'altro. Lui ha fatto una lettera molto nostalgica. Sì, e ma io infatti l'ho non è un'apologia di reato, dai. Io l'ho capita anch'io. Benissimo, perché io sono una che ha provato il brivido dell'occupazione. Sì, E l'ho provato, è stata una bellissima esperienza e una grande responsabilità, perché pulivamo le aule e facevamo lezione. Per quanto riguarda l'epoca, avevamo gli anni 70, quello che era. E poi volevo dire un'altra cosa, che forse oggi, forse non so, non avevamo i centri sociali eccetera, però c'è una cosa che io questo reato, che vogliamo chiamare reato, che deve essere stata fermata anche dalla polizia, e da lì comunque ho cominciato a fare anche una certa politica, però sempre mantenendo un certo diciamo... Vabbè, insomma, lei dice può nascere in qualche modo una certa esperienza politica, no? Ma Daniela, è chiarissimo, perché altrimenti devo un attimo fermarla, perché altrimenti non ce la faccio, il tempo corre. È stata chiara nel suo ragionamento. Ma come sapete voi, noi e tutti voi, insomma, in conclusione di puntata, noi invitiamo sempre un ascoltatore che ci chiama dall'estero, questa iniziativa che abbiamo chiamato Ciao Italia! Ciao Italia! Siete pronti? Siete caldi, diceva anche, siete caldi? Yeah! A Lorenzo Nespoli ho dovuto spiegare che era il concerto di Madonna, mamma mia quanto è giovane lui. Ma oggi voglio salutare il nostro amico Jesco, che ci ascolta da... Jesco! Pronto? È svenuto. Jesco, dove sei? Jesco, noi ti ascoltiamo. Jesco, dove sei? E infatti non si sente. Jesco, dove sei? Ma perché? Ma queste sono le classiche cose che non devono succedere. Ma sento in sottofondo qualcuno. Jesco, ma ci senti? Jesco Schneider. Niente, è caduta la linea. Oh, caccia la miseriaccia. Ci ascolta da talmente lontano che è caduta la linea, ma comunque adesso lo recuperiamo. Jesco, allora, dove sei? Jesco, tra l'altro, abbiamo scoperto, è italo-tedesco. E si chiama Jesco Schneider. E che dobbiamo farlo? Niente. Sono le classiche situazioni disastrose. Jesco, ciao, dove ciao, sei? Ciao. Da dove ci parli? Da Krasnoyarsk. Siberia orientale. In Siberia orientale. Che fai? T'hanno deportato in Siberia? Hai detto qualcosa contro Putin? No, volontario. Volontario. Non si può dire niente contro. Ci ascolti da Krasnoyarsk. Quanti gradi ci sono in Siberia? Adesso un po' riscaldato, siamo a meno 23 gradi. Meno 23, mamma mia. L'altro giorno abbiamo passato i meno 40. Mamma mia, che fai lì? Lavoro in aeroporto per una compagnia aerea e sono lì come responsabile operativo. Responsabile operativo. E ci trovi bene? Ti trovi bene lì? Ti piace? Ma devo dire molto bene, nel senso che all'inizio ero un po' del Siberia con i russi, invece poi devo dire che se dovessero ripropormi la questione andrei subito. Perché? Che ti piace l'idea? Che cosa c'è di bello in Siberia? È una natura immensa. È tutto molto estremo, le temperature sono estreme, d'inverno, d'estate si passano i 30 gradi, d'inverno si va sotto i 50. Ma come si vive a meno 50? Ma è così freddo? Oppure il freddo secco? È un freddo secco, soffro più quando vengo in Italia, con l'umidità così mi entra nelle ossa, là invece va bene. Beh, meno 50 è tutto bene, è tutto a posto. No, è tutto a posto, è un po' freddo, ma non è che io vado a sciare regolarmente, corro anche a meno 25, così non mi dà nessun fastidio. È fantastico. Sì. Insomma, Krasnoyarsk, ma tu di dove sei invece in Italia? Dove io stai? Sono di Bergamo, di Bergamo. E quindi sei distante quanti chilometri? Circa 8.000. 8.000 chilometri, ma ci ascolti da lì? Ma che bella questa cosa, ma come ci ascolti? Ma in streaming normalmente, quando vado al lavoro in macchina, in streaming, oppure in podcast, me lo scarico quando vado a correre in zone dove non c'è wifi. Bello, in mezzo agli orsi, ai lupi. Lì è pieno di orsi. È pieno di orsi. Chiudono i parchi quando si svegliano dal lettargo, perché ogni tanto... Jesco, noi ti dobbiamo salutare. Dimmi cosa pensi in 10 secondi dell'Italia da lì. Beh, sto bene qua. Eccolo là. E con questa abbiamo detto tutto. Sto bene in Siberia rispetto all'Italia, meno 40. Scriveteci se ci ascoltate dall'estero, è 24 mattino, è radio24.it. E noi vi invitiamo in onda. A domani. 24 mattino.